Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 3 minuti dopo le 22, bentrovati in questo mercoledì 2 ottobre 2013 sulle frequenze di Blu Radio Veneto, il nostro consueto appuntamento con la musica dal vivo in diretta nei nostri studi ogni mercoledì dalle 22 alle 24 all'interno di Rock Wave Live. E il mercoledì appunto è sempre stata la serata clou, diciamo, di questo appuntamento all'interno della nostra programmazione. Caro Maurizio, devo dire che l'Emilia per noi è molto gettonata, sì, molti gruppi che sono venuti da quella zona. Una terra florida di musica rock, sì, vero, sì. Carbonio 14, buonasera, state con la bene? Con la K. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Bella voce che c'hai, Valerio. La sto facendo apposta. Avete fatto buon viaggio? Sì, buon viaggio. Bene. Tutto sommato andava bene. No, andava bene, è andato tutto bene. Sì, tutto sì. Bene. Bene, Carbonio 14 è un gruppo interessante, secondo me, musica perfetta. Dobbiamo sottolineare che il vostro disco, il disco appena uscito, ha una cura dei suoni incredibile. E quello è già una caratteristica, Carbonio 14. Cosa dite? Prima di tutto ti ringraziamo per quello che hai detto. E poi sì, perché noi comunque ci siamo conosciuti. E come vi siete conosciuti? Ecco. Noi ci siamo conosciuti musicalmente avendo la medesima idea, che era quella di fare un tributo ai Coldplay. Sì, eravate la band ufficiale di Coldplay. All'inizio sì, facciamo il tributo, più che altro, più che per scimmiottarli, tra virgolette, passami il termine, perché ci piaceva a tutti questa idea di suono British, quindi suoni che sono apparentemente sporchi, fosse sprecisi, ma che in realtà hanno una bella solidità. Sono molto curati. Molto curati, però è una cura diversa rispetto a quella americana, ad esempio, sì, che invece è molto più pulita, sì. Invece sono molto più graffianti in generale, poi è logico che generalizzare è sempre sbagliato, però comunque. E noi quindi ci siamo accorti che facendo i Coldplay ci venivano veramente molto bene, nel senso che quasi naturalmente riuscivamo a trovare il sound, perché poi non è detto che una band di quattro musicisti bravi, non bravi, cioè preparati, riesca a trovare un sound. Noi ci siamo accorti che invece questo sound lo trovavamo molto naturalmente, come se ci calzasse. Ma eravate stancati di fare i Coldplay? No, ci piace così. Ancora farli, no, li facciamo ancora ogni tanto. Sì, ma volete piace. Fare qualcosa di vostro? No, certo, però a un certo punto, tipo 2 anni fa, ci siamo detti, ma perché non proviamo ad usare questo sound? E cercare di dire qualcosa di nostro, di personale. Certo. E allora, sempre così, molto naturalmente, abbiamo scritto 2 pezzi, 2 brani, abbiamo provato a farli, proprio così anche per gioco, perché nessuno aveva come. Come li avete provati? Dove? In famoso garage oppure no? Ma sì, una volta si usava il garage. No, però io che ho una certa età, tutti... una volta si usava il garage. No, ma qualche bunker c'era. C'era qualche bunker. Sergio, che è più giovane di me, non usava il però garage. Però magari partiva l'idea da uno la sviluppava, un componente del gruppo la sviluppava, e poi quando abbiamo trovato l'amalgama in sala prove, abbiamo visto che anche il nostro suono ci piaceva senza dover stare a cercarlo particolarmente, perfetto. Ce l'avevamo. Certo. E quindi abbiamo detto, proviamo, andiamo avanti. Allora, Valerio Carboni, puoi presentare anche i tuoi compagni? Certamente. Di avventura. Il tastierista e pianista si chiama Luca Zannoni. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Luca. Il mitico nostro batterista è Cesare Barbi. Un batterista di grandissima esperienza, ma poi ne parleremo. Sì, abbiamo tempo di parlare. Poi abbiamo il bassista vicino. E il bassista che è Matteo Verrini, Pepe. Ciao a tutti. Buonasera. Oltre bassista, anche ballerino. Anche ballerino, grazie. Perfetto. C'è poco spazio per muoverti stasera. Sì, stasera. Si balla anche al Unplugged. Perfetto, è giusto. Quindi avete avuto l'idea di costruire queste nuove sonorità. Sonorità vostre. Sì, nostre, più che nuove, sì. Nostre. Sonorità vostre. E siete andati avanti, avete approntato un progetto, il progetto è sfociato e il disco è uscito da qualche mese. Il disco è uscito il 16 aprile e si intitola Tra le luci bianche, e anche lì è stato strano perché vabbè, non siamo, diciamoci la verità, non siamo musicisti di primo pelo, insomma, abbiamo non una certa età, però abbiamo tutti sopra i 30 anni e abbiamo tutti fatto tante esperienze dal vivo. Avete una bella gavetta dietro. C'è una bella gavetta, soprattutto anche a livello di studi, di conoscenze, a livello musicale, per cui abbiamo detto, visto che lo stiamo facendo e visto che possiamo farlo, ce lo fanno fare, perché poi abbiamo trovato 2 grandissimi manager che sono Marco Marchesi e Paolo Rossi, che ci hanno sponsorizzato, certo, e la Molto Recording, che è la casa discografica di Modena che ci appoggia. Allora abbiamo detto, cerchiamo di farlo come ci piace, che però alla fine lo dicono tutti un po', quando tutti fanno l'album, dico cerchiamo, noi sapevamo a volte a chi rivolgerci per trovare un suono, e l'abbiamo fatto molto istintivamente. Mi diceva Cesare mentre voi stavate provando, quando è venuta dall'altra parte del vetro: siamo stati molto soddisfatti del disco. Mi diceva Cesare, ha avuto delle ottime accoglienze, bello bello, è stato positivo. Cosa dici, Matteo? Cesare non vuole parlare, che è molto stanco stasera, ma puoi parlare. No, non è stanco, non sa parlare. No, non è vero, non è vero. No, no, parlerà dopo, stiamo scherzando. Dimmi, no, Matteo. No, noi siamo molto molto contenti del risultato che abbiamo avuto. Ci rispecchia molto bene, ecco, l'album. Proprio il discorso delle sonorità che facevi tu prima è stato in parte ricercato, in parte ci è venuto naturale, però voglio dire, ancora oggi per me ascoltarlo dopo la 16 milionesima volta è ancora emozionante, perché ci sento proprio me e la mia, i ragazzi e la mia band lì dentro, soprattutto la mia parte da ballerina si sente forte. No, però dimmi. È difficile, cioè non è sempre semplice in una band di quattro elementi che tutti siano al 100% d'accordo sul sound. È vero. E noi, come ti dicevo prima, molto naturalmente, cioè ci piace a tutti, cioè perché abbiamo faccio un paragone, come quando trovi un amico che non si sa perché, magari ha un carattere che è completamente diverso da te, ma ti trovi bene. Noi ci siamo trovati bene, prima di tutto come amici, come persone. Noi ci divertiamo molto quando andiamo in giro, perché ci piace proprio. E riusciamo anche a prendere queste cose e a farle in musica, per cui ci piace. Poi speriamo che piaccia anche a molte altre persone. A noi è piaciuto molto. Bene, quindi. Bene, quindi. Adesso, come sempre facciamo, vero Sergio? Apriamo la finestra. La finestra che di solito si apre con un brano da disco, mi pare. Esattamente. Abbiamo scelto il primo pezzo, la traccia numero uno, che è una traccia importante, perché a me è piaciuta particolarmente, perché aprire un disco con una traccia così significativa, piena di suoni, è una cosa di un certo coraggio, secondo me. Ne parliamo dopo. Ne parliamo, la sentiamo. Beh, ricordiamo anche il titolo del disco, che mi sa che non abbiamo ancora detto, che è Tra le luci bianche, appunto, dei Carbonio 14. E la prima traccia che sentiamo è la numero uno del disco, che si intitola Kenobi, anche questa con la K, guarda un po'. Di caso. Guarda un po'. E la sentiamo e dopo. Un minuto e 32 sparate, assolutamente. Danza tra le curve chiuse del mio dubito, delle forenze che sono scritte in arabo, ma poi mi guardo dentro e mi viene il vomito, cercando mille scuse ed una soluzione a questo illogico. Non si spegne mai, mai. si spegne mai, mai. Se ci sei nel mio domani, io non lo saprò mai, io sono solo e senza ali. No, no, no, sciolgo i nodi e i legami di questo insensato vuoto. Fragile oramai, come follia, la dipendenza è la mia malattia. Se ricorda e si propaga come in una via che non si spegne. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Complimenti. Intensa. Intensa molto. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Bene, è un pezzo veramente potente, sì, come ha detto giustamente Sergio. E potente perché si attaccava alla cosiddetta intro. E l'intro è molto interessante. Pieno di colori, pieno di suoni, anche psichedelici possiamo dire. Mm. E questo pezzo dove finalmente, per meglio dire, per la prima volta impone il falsetto, Valerio. È una cosa meravigliosa il falsetto. Mi piace particolarmente chi usa il falsetto, che è difficile, ma è colorato ed è particolare. È assolutamente che prende, a me prende immediatamente. Perché l'uso del falsetto, Valerio? Guarda, in realtà è una bella domanda questa, non mi è stata... Ma sai quanta volta la gente che usa il falsetto mi riempi di gioia? Allora adesso ti faccio un discorso, siamo in radio, siamo molto logorroico, tutto dal vivo, ragazzi. È un concetto, cioè, secondo me la musica riflette molto la società, la propria umanità, l'anima, quindi la personalità di una persona, di un individuo o di una società. Secondo me nell'animo maschile, quindi nella figura maschile, è sempre un bel connubio tra la parte maschile di un uomo e la parte femminile di un uomo. Io vedo che i maggiori artisti che abbiamo avuto, quelli più come può essere Jeff Buckley, Freddie Mercury, avevano una parte maschile ma una parte femminile molto anche accentuata. Che il connubio delle due parti, un'amalgama, rende secondo me un artista, lo eleva, insomma, perché riesce a tenere magari la durezza, a volte la forza della parte maschile alla magari dolcezza o sensibilità della parte femminile. Il falsetto riflette nella voce la parte femminile, secondo me, di un uomo, di un uomo maschio. In questo caso di un artista. Sì, di un musicista. E quindi io quando sento che con la voce posso dare sia delle cose forti, quando uso tanta voce, quindi quando uso la voce piena, ma a volte posso anche essere più morbido, più dolce. È una cosa, come dici tu, difficile, perché la prima cosa quando sei giù di voce o quando hai un problema è che il falsetto, sì, l'uso della mezza voce, l'uso del falsetto ti manca. Sì, esattamente. Però anche forse la parte più bella, più divertente, più challenging, come si dice in italiano. Dobbiamo dire una cosa: il vostro album non possiamo chiamarlo un concept album, però ha un progetto molto importante, le due, l'intro e il controintro. Com'è il discorso, Matteo? Il discorso è quello di cercare un contrasto forte tra quelle che sono le sonorità. Dicotomia, praticamente. Sì, una sorta di dicotomia tra l'anima e il corpo, se vuoi, tra quelle che sono le emozioni e quelle che sono le azioni, ecco. Noi abbiamo cercato tantissimo con sia le musiche che soprattutto con i testi di cercare di dipingere un po' quelle che sono l'universo delle emozioni che l'essere umano prova in determinate situazioni. Perciò c'è un contesto ben preciso che rappresenta un po' quello che è la parte terrena, ecco, del disco e della storia, della storia, insomma, del protagonista, chiamiamolo così, e invece quelle che sono tutto l'universo delle sensazioni che questa persona prova nel momento in cui vive determinate situazioni. E perciò abbiamo cercato questo, di dare piccoli tratti di emozioni che riflettessero delle situazioni concrete. Perciò sì, di dicotomia si può parlare, ecco, per l'album. E come mai qualcuno ha scritto che è un disco impressionista? Ma gli impressionisti, la grossa rivoluzione che ebbero... Si parla della pittura, chiaramente. Sì, ovviamente, siamo nell'ambito della pittura dell'Ottocento, il Parigi, e ebbero un movimento di rottura con quello che erano i loro contemporanei, perché a discapito di quella che era la scuola e di quel momento, gli impressionisti tendevano a dare una rappresentazione della realtà non tanto per com'era la realtà vista con gli occhi reali, ma più che altro come era percepita. Perciò quindi l'emozione, la sensazione, perfetto. E perciò, insomma, uno stesso paesaggio poteva essere dipinto in modi molto diversi rispetto sia all'impressione che il pittore aveva di questo paesaggio, che per quello che lui stava provando in quel momento. In questo senso noi abbiamo fatto un po' un disco impressionista, nel senso che è un disco che parla di emozioni più che di situazioni concrete vissute. Emozioni libere, però, secondo me, non particolarmente legate, non so, a un'emozione amorosa, non soltanto amorosa, un'emozione libera a 360 gradi. Sì, parla in realtà c'è sempre il rapporto tra un io e un esterno, che può essere o un rapporto normale tra uomo e una donna, però anche il rapporto con l'io e la propria coscienza, certo, come follia, che sono due, in realtà sono poi due persone. Esattamente. O tra l'io e una persona che non c'è più, tra di là, oppure tra una specie di universo e un altro. Comunque sempre il rapporto a due, però abbiamo cercato di dipanarlo in tutte le possibili forme. E per quanto riguarda l'introduzione, che a me interessa molto, che io sono di una certa età e certi suoni mi ricordano una certa età. Infatti, abbiamo visto che insomma, la discografia in questo momento è molto frammentare, il mondo è molto fatto di frammenti, anche con iTunes, con i brani. La gente tende meno ad ascoltare l'intero album, magari prendere una canzone lì, una canzone ma anche 30 secondi, è tutto fatto molto veloce. Certo. Noi abbiamo detto, vabbè, a noi così non siamo molto d'accordo, proviamo a fare come ci piace a noi, quindi proviamo a fare un'introduzione, perché l'introduzione è un'introduzione strumentale, che è poi il pezzo, il penultimo pezzo dell'album, rifatto in una maniera dare un'impronta, come hai detto tu prima benissimo, quindi vedi che alla fine vuol dire che qualcosa siamo riusciti a... È stata un'impronta coraggiosa, aprire un disco con questa intro strumentale ricorda certe cose degli anni 60, 70, certo. E quello mi interessa. Io che amo particolarmente quel periodo, mi sono subito tirato su in piedi, perché ho capito, questi ragazzi giovani musicalmente fanno un'introduzione che riportano al passato, ma non passato per copiare il passato, per dare una svolta, per dare un motivo, per dare un messaggio. E come ci siamo riferiti al passato per l'intro, anche la stessa idea di avere un album corto con 9 canzoni, con 9 tracce, che fosse più 2 bonus, però le 2 bonus, esatto, però voleva essere un mini concept che richiamasse quelli che erano appunto gli album degli anni 60-70, i primi Led Zeppelin, gli stessi Beatles. Perciò c'è un senso di circolarità dato da Kenobi e da Ti verrò a cercare, perciò la prima e la penultima traccia, e poi comunque sono 9 brani non troppo lunghi, perciò insomma è un album corto, ma speriamo e crediamo, ecco, essere comunque abbastanza incisivo. Una cosa che ho notato, secondo me, non so se siete d'accordo, Valerio, la voce è al centro, gli strumenti corrono intorno alla tua voce. Anche lì per quanto riguarda il discorso che abbiamo fatto prima della musica british, Brian Eno, che è un produttore... Dobbiamo alzarsi in piedi, no? Siamo seduti, va bene. Siamo YouTube, ha fatto Coldplay. Ha fatto tutto molte cose. Praticamente, dai Doxy Beauty poi. Cioè, noi come siamo abituati a pensare, adesso un discorso forse un po' tecnico, però magari no, come siamo abituati a pensare all'intorno che crea la musica, no? C'è la voce in centro, la batteria, magari il basso, e intorno c'è qualcosa. Noi siamo abituati a pensare che l'intorno lo possa dare un'orchestra, i violini, i sintetizzatori. Gli inglesi l'intorno lo danno con delle chitarre che non sono decise dentro il suono, dentro l'immagine sonora, ma sono intorno, creano sonic landscape, li chiama Brian Eno, cioè questi ambienti sonici, sonori, fatti con le chitarre. Quindi c'è al centro qualcosa, quindi la voce, il basso, soprattutto il basso di Matteo. Sì, cioè il basso dà la nota, fa capire la nota. La voce fa capire, la batteria cassia volante, dando il ritmo, e intorno c'è il mondo. In America tendono di più a far capire cosa fa ogni singolo strumento, a pulire tutto. se ascolti Coldplay è difficile che tu riesca a capire bene cosa faccia una chitarra o cosa faccia una tastiera. Però alla fine suona bene, sì, alla fine suona, ti ritrovi in un parco o in una montagna o in una galleria, cioè ti trovi in un posto. Dobbiamo ricordare che il penultimo disco e l'ultimo disco è stato prodotto da un personaggio che abbiamo citato, si chiama Brian Eno, quindi già indica qualcosa. Caro Sergio, cosa dici? Sentiamo un altro pezzo da disco? Sei d'accordo? Potremmo sentire ad esempio la traccia numero 4. Sentiamo la traccia numero 4. Sembra poi molto parliamo. Casuale, invece ho la lista qui. Marpione. Allora, un tuffo dentro al cielo. La sentiamo subito, ne parliamo sì, dopo. Sì, la sentiamo e poi ne parliamo. Eccola qua. Messaggio che ti voglio inviare, il tuo sorriso sempre alzato su quel profilo raffinato è una cura contro il vuoto e cancella il mio dolore che prosciuga l'anima. Sarà l'appetito e fibra del mio tessuto che ripara l'anima. Sarà possibile un tuffo dentro al cielo, amore che prende il volo. Allora ricordiamo che questa sera ci sono con noi Carbonio 14, questa era la traccia numero 4 del loro disco Tra le luci bianche, dal titolo Un tuffo dentro al cielo. Maurizio. Sì, un altro pezzo molto significativo molto accattivante. Questo è un bel pop. È un bel pop. Fatto bene. Come i crismi, come si dice. Chi l'ha avuto l'idea di fare questo arrangiamento, Valerio, o Matteo, o Cesare, o Luca? Matteo. Allora, Matteo, sempre te. Questo pezzo ha una storia un po' particolare che vale la pena di essere raccontata. Quando abbiamo iniziato a registrare l'album, ci siamo resi conto che mancava qualcosina, no? Eravamo alla disperata ricerca da un pochino di un pezzo che fosse un po' up, perché abbiamo visto che, diciamo up nel senso un pezzo un po' positivo, un po' più pop rispetto a quella che era la media della nostra scrittura. Perciò mentre stavamo registrando il disco è partito una sorta di concorso, di concorso interno alla band per decidere, per decidere appunto questo benedetto pezzo up, che noi ci avevamo detto facciamo un pezzo up senza sapere bene cosa stavamo cercando, insomma in realtà cercavamo un pezzo aperto, positivo, che fosse un po' pop, ecco. E perciò ognuno di noi ha portato una candidatura che abbiamo sottoposto al giudizio universale di Valerio, perciò perfetto. Quattro pezzi, tra l'altro con dei nomi divertentissimi, perché avevamo battezzato i provini con dei nomi strani, tipo il mio si chiamava Dentro al vestito di Ciubecca c'è Bon Jovi. Cesare aveva Calvaga, e questo era Calvaga, che Calvaga, che in dialetto, nel nostro dialetto vuol dire che vada, no? Perciò un pezzo Calvaga abbastanza potente. E questo, che ha vinto il contest, che era il provino di Valerio, sotto la giuria di Valerio, ovviamente ha vinto il pezzo di Valerio, era Osman Pirellato. Perciò questo sì, infatti il problema con i nostri pezzi è sempre ritornare alle origini. Tipo ma fammi sentire il pezzo, quello come si chiamava, e noi non ci ricordiamo il nome ovviamente, perché li facciamo, però abbiamo fatto questa cosa qua e abbiamo trovato questo pezzo qua positivo e ci siamo fatti aiutare nella scrittura del testo da Marco Ligabue. Marco Ligabue che prima suonava Neri, io con Cesare, sì, per cui che Cesare ha suonato con un po' di gente, vero Cesare? Va bene, allora un po' così. No, adesso facciamo lo spot di Cesare Barbi, nonostante abbia solo 21 anni, no, di onorata carriera batteristica. È 21 anni che ne ha 25. Vabbè, no, non è vero. Ha suonato con i Ladri di Biciclette dall'inizio alla fine, ha suonato con negli album di Luciano Ligabue, il nome e cognome di Luciano Ligabue, con Cesare Cremonini, ha suonato Nerio. Insomma, lui è uno che e suona con voi. E suona con noi. Vabbè, infatti guarda il declino, come va avanti inesorabile. No. No, sto scherzando. Però lui è stato molto utile a noi, perché noi comunque veniamo da altre esperienze. Lui ha sicuramente più esperienza di noi. Lui parla molto poco, però dalle sue espressioni, da quello che dice, si capisce se una cosa è buona o no. Perché lui ne ha fatti tanti, ha fatto anche 3 Sanremo, quindi è uno che un po' ne sa, un po' ha girato. Quindi noi lavoriamo, però poi lui Lui ha fatto 3 Sanremo, ma tu hai fatto qualcosa d'altro, visto che hai fatto una colonna sonora di un film, hai partecipato alla stesura delle musiche dell'ultimo spettacolo di Aldo Giovanni Giacomo. Ho scritto le musiche dell'ultimo spettacolo teatrale loro, che è adesso faccio la marchetta, è al cinema il 16 ottobre solo per un quindi giorno, quindi fra qualche giorno a Mutta Muddica, sì, sicuramente c'è anche in qualche cinema di Padova. E sì, ho scritto le musiche con il regista Arturo Barchetti e ho scritto le musiche, la colonna sonora dell'ultimo film di Angela Finocchiaro, che si chiama Ci vuole un gran fisico, che è uscito a marzo, per cui tanta carne. Che differenza c'è comporre e scrivere pezzi con la band e scrivere un pezzo per una colonna sonora o per una musica di un teatro, di una commedia divertente come quella di Aldo Giovanni e Giacomo? Beh, in realtà scrivere è un istinto. A volte l'istinto va veicolato per questioni di tempo o per questioni anche di esigenze di terzi. Con Carbonio 14 è logico che la nostra scrittura è più personale, nel senso che magari mi viene in mente una melodia o un testo, lo sottoporrò a loro, agli altri, o viceversa. Certo. Quindi è una cosa forse più intima, è come trovarsi tutti e quattro a bere un cognac davanti al camino a parlare delle cose. Scrivere per Aldo Giovanni Giacomo è come partecipare ad una festa, c'è tanta gente e tu devi però fare capire chi sei e partecipare a questa festa facendo la musica, molto meno intima, sicuramente divertente e sicuramente è stato un'esperienza anche fare la colonna sonora, perché si partecipa con l'eccellenza del cinema, del teatro, e quindi è stata una bella esperienza. Beh, una bella esperienza sicuramente con la band. Dopo chiediamo a Matteo, visto che un'intervista ha spiegato bene, con una certa dovizia di particolare, il perché della K Carbonio 14. Io non chiedo mai come si chiama una band, ma stasera io e Sergio abbiamo proprio deciso di chiedere, vero Sergio, il perché del nome Carbonio 14. Sei un vezzo così, o se c'è un motivo. Ecco, esattamente. Allora, facciamo una cosa di questo genere, suoniamo qualcosa, quello sì, perché la cosa più bella è suonare e partecipare. Cosa volete che suoniamo? Quello che vuoi, Valerio. No, no, no, la domanda è cosa c'è in scaletta? Ah, cosa c'è in scaletta? Non lo so. No, qui la scaletta può essere anche rivoluzionata. Beh, da disco poi andiamo a sentire la 6, Catene. Da disco. Se ne fate un'altra magari. La 6 e la 7 abbiamo. Adesso vi facciamo un pezzo, scusate se vi siamo accavallati. Facciamo il pezzo che è stato il secondo singolo tratto dall'album, si chiama Distanze Accese. Perfetto. Radio Veneto, Rock Wave Live. Eccoci qua, Distanze Accese. Io ho scritto una piccola nota, non so se siete d'accordo. È un singolo però molto d'atmosfera, molto che prende... Quasi una ballata. Quasi una ballata, effettivamente. Dimmi Luca, vorresti dire qualcosa? Sì, no. Un singolo d'atmosfera, quasi una ballata. Vabbè. Hai dato proprio la fotografia esatta. No, volevo, lo indicavo perché volevo rispondesse lui alla prossima domanda. No, perché il piano... Questo mettilo inizio... in difficoltà, scusa. No, vai, questo inizio di piano, questa chitarra lontana, che si sente mai lontana, da un certo senso, porta l'atmosfera, secondo me. È una ballata, sì. Però d'atmosfera. Non è una cosa così, una giustificazione. Deve essere così. Ballata, ma no, d'atmosfera. Da fa certamente sensazione, fa certamente idee, fa pensare, posso dire questo. A me personalmente ricorda un po' il mondo anche Pink Floyd. Questo ecco, pezzo. Floydiano, sì, esatto, possiamo sì. andare, dai. Esatto. Sì, siamo in quella dimensione lì. Mm. No, non pesante, no. Velutata. appena accennata, anche se che Valerio poi cresce con la voce, si alza con la voce, dà una colorazione, cioè gioca nuovamente col falsetto che a me piace particolarmente, scusi se mi ripeto, però è più forte di me. Però... fa l'amore con la canzone. Fa l'amore diciamo con la canzone, dai, diciamo esattamente. Così, esatto. Lui è il componente delle metafore, delle allegorie, lui trova sempre dei termini giusti. Tipo siamo usati sicuri, quelle cose. Ah, ho capito. Una volta ci hanno detto, ma voi non siete particolarmente giovani, no? Allora lui ha detto siamo usati sicuri. Ah, e mentre lo diceva guardava con fare ammiccante la fotografa che non c'entrava nulla in quel momento, che è rimasta estasiata. Stanno esagerando. Adesso ti dico una cosa che è molto interessante su questo pezzo, che io amo incredibilmente. E la cosa che a me piace molto è che questo pezzo, di Stanze Accese, e il brano che abbiamo sentito prima, Un tuffo dentro al cielo, sono diciamo le due stesse medaglie della stessa situazione che abbiamo cercato di descrivere. Cioè in entrambi i casi si tratta del rapporto uomo-donna, delle sensazioni che si provano nel momento in cui si ci trova davanti a una nuova storia, una nuova relazione, un nuovo amore. Distanze Accese tende a mettere l'accento su quelle che sono le paure, le parti un pochino più nebulose di un futuro che non sappiamo cosa ci riservi, perciò ci si è abituati a soffrire, magari a rimanere da soli, e nel momento in cui ci si trova sicuri in questa situazione di insicurezza, ma si trova quello che si stava cercando, le sensazioni possono essere anche un po' negative, nel senso che si prova anche paura di essere felici, forse anche. Invece Un tuffo dentro il cielo riflette la stessa situazione, però invece riflette quel lasciarsi andare, quella gioia meravigliosa, quel buttarsi davanti a proprio qualcosa di nuovo che si stava cercando. Ma Distanze Accese ha una tematica molto lenta, molto velutata, che non ha musicalmente l'altro pezzo, secondo me. Assolutamente, infatti descrive appunto la parte più riflessiva di questa situazione, perciò credo che siano le due facce della stessa medaglia, e proprio perché due facce della stessa medaglia così diverse tra loro. Tu hai detto un'altra cosa, non so se sei stato te, le sensazioni che generano una specie di immagine di un profumo. L'hai detto te? Può essere. Io mi ricordo che l'hai scritta tu. Ci sono un sacco di cose che io ho detto e non ricordo di aver detto. No. È una cosa che anche hai detto, ma hai spiegato bene, adesso possiamo spiegare, anche se Sergio è d'accordo. Fammi leggere la risposta. No, non ti posso leggere. Io mi spieghi il perché del carbonio 14. Perché carbonio 14? L'essenza carbonio 14. L'essenza. Ah, no, abbiamo glissato clamorosamente su quella domanda. Voglio capire perché, al di là del termine, del nome della band, ha un significato profondo nel progetto dell'album. Ah, lo dico io. Carbonio 14 è un procedimento che serve per datare i reperti storici, questo a livello tecnico. Si fa la reazione al un corpo, una sostanza organica, quindi una sostanza che è viva o è stata viva, reagisce al carbonio 14, e tramite il carbonio 14 riusciamo a capire quanti anni ha quell'osso di dinosauro. Insomma, una palla pazzesca. Pensato a me per questa cosa. C'è la versione vera, in realtà, che per datare Cesare Barbi abbiamo usato la reazione al carbonio 14, per quello che ci siamo l'abbiamo datato. È così, 54.000 anni e il carbonio 14 non lo so. Magari. Quindi cosa fa? Fissa nel tempo qualcosa, cioè data una certa cosa. Sì. Data nel senso che mette in datazione, mette in cronologia. Sempre questa cosa che dicevamo prima delle sensazioni, una canzone può essere vista anche come agglomerato di sensazioni, e come quasi una fotografia. A volte il momento che vivi è molto più bello e ricco per quello che ti ricordi del momento. Io ho fatto un esempio che è molto banale, però secondo me molto ficcante, l'esempio del primo bacio. Quando è strano, perché quando dai il primo bacio non te lo ricordi, cioè tu... È un momento che passa via, però tu ti ricordi il tuo primo bacio, ad esempio. È un momento che ti porti. Pensa quanto è importante. È un secondo, non te ne accorgi. Te lo porti avanti. E te lo porti avanti per tutta la vita. Esattamente, sì. Così potrebbe, noi speriamo di farlo, fare una canzone. Certo, cioè, un pezzo. Racchiude un'emozione, racchiude qualcosa, una sensazione, un profumo, qualcosa, e la mette la fotografa. Mm-hmm. Quindi la data anche la mette nel tempo. Io, quando canto ad esempio una canzone che probabilmente sei in scaletta ma dovremmo farla, faremo, che è Pioggia, mi ricordo esattamente come stavo quando l'ho scritta e credo, suppongo che me la ricorderò per sempre, quindi questa è una bella potenza che può fare la musica, cioè racchiudere una sensazione. Per cui Carbonio 14, mi chiamo Carbone di cognome. Quello... Carbone di cognome. Ha rovinato tutto. Questa è la verità. Infatti non volevo dirtelo, però insomma. Non lo sapevo, non me ne ero accorto. Questa è la verità e noi abbiamo chiuso questa storia per rendere... Potevo andare avanti 45 minuti, più andavo avanti più era pittoresco. Beh, è stato bello dai lunedì. Sì. Bene, però vedi anche noi ci piace unire queste cose, perché alla fine la vita, le canzoni sono... Ma le canzoni sono importanti, fotografano un momento significativo di una vita di tutta la gente. Ogni persona ha una canzone. Ma pensa quando senti un profumo in giro e ti ricordi magari certo. dell'estate. È vero, 84. Cioè, è incredibile. Sì, sono d'accordo. Una canzone può far questo. Io mi ricordo molte canzoni che mi evocano. Noi ovviamente molto egocentricamente cerchiamo di farlo. Non è detto che accada, però per noi probabilmente è ma così. È un tentativo. Ah, il tentativo. È di farlo, chiaramente. Sì, sì, sì. Bene, sono 22:44. Cosa dici, Sergio? Un altro pezzo da disco? Se vuoi, sì. Che traccia abbiamo scelto adesso? Abbiamo la traccia numero 6, che è appunto Catene. Perfetto. Qua cambiamo genere, eh? Suoni che si prendono il controllo su di me, i miei demoni. È così che danzerò al tuo fianco su queste sabbie mobili. E guardo te che stai ballando e le tue curve ipnotiche. E sento che mi stai cercando tra le luci stroboscopiche. Seguendo i tuoi occhi non ho catene. Disperso nel buio non ho catene. Vertigine intorno non ho catene. Cercando il tuo corpo non ho catene. Già il controllo sui pensieri stabili. È così che esco dalla gabbia danzando sopra i demoni che ho ora. E vedo te che stai ballando imprevedibile. E sento che mi stai sfuggendo tra queste luci stroboscopiche. Allora, dobbiamo ricordare che siete sempre su Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave Live del mercoledì, questa sera con i Carbonio 14 che presentano il loro disco Tra le luci bianche. Sesta traccia, Catene. Cosa ne pensi, Sergio, di Catene musicalmente? Allora, prima, quando allora abbiamo Sergio sentito... mentre l'ascoltavamo, io lo vedevo, posso dirlo, si stava toccando il telefonino, però il telefonino, sì, certo. Tu da lì forse non vedi, vabbè, era così sotto è nudo Sergio, effettivamente avevo la mano davanti, però eccolo qua. Tra l'altro hai un simpaticissimo modo di toccarti, perché tu stai immobile con la testa. Fortuna che non senti. Allora, diciamo che cosa musicalmente, Sergio, cosa hai capito di questo pezzo? Io ho capito, era un pezzo quasi da discoteca, se ne pensi. Cittun cittun. Esattamente, cittun cittun. No, nel senso. No, è cittun cittun, che è diverso. Ecco. Come mai? No, prima, quando abbiamo sentito il pezzo precedente da disco, pensavo, questo potrebbe essere un singolo. Adesso ho sentito questo, anche questo potrebbe essere un singolo. Cosa dite? La scelta dei singoli è sempre sono molto accattivanti. Sì, sì, noi questo pezzo qua è un pezzo che, ti dico, noi abbiamo cercato di fare l'album che ci piacesse al 100%, quindi anche se magari non c'era qualcosa di un po' distante, che però ci piaceva inserire. Era un po' pompato, ma pompato non nel senso negativo. Il pezzo è un pezzo comunque nostro, quindi che viene da tutti. Poi abbiamo deciso di prendere questo pezzo e dire, ma visto che aveva già anche suonato strumentalmente da noi in sala prove, un mood danzereccio, sì. Perché non dobbiamo farlo fare un DJ? Perché una cosa bella che a me piace molto di Carbonio 14, che a parte questo fatto che suoniamo il sound che ci piace, è difficile che litighiamo per scelte musicali, per questioni, perché ci fidiamo molto, e la fiducia secondo me è una delle cose principali che puoi avere, perché magari una scelta che può fare Cesare o Matteo, a me... Ma chi ha dato l'input di questo pezzo? Credo che il pezzo non esca da te. Catene è un pezzo che abbiamo scritto io e un DJ che si chiama Andrea Mazzali di Modena, e l'avevamo scritto un po' di tempo fa. Era così oppure era un po' no, diverso? Era ancora più dense. Era ancora più dense, ho capito. Poi però l'abbiamo provato a portare nel mondo Carbonio 14 e poi abbiamo detto cerchiamo di fare una via di mezzo. E l'abbiamo riportato a lui. Sì, sì. Ho capito. Cioè, prima l'avete riportata in Carbonio 14, l'avete... un po' rivoluzionata leggermente, poi è riportata, certo, al DJ. Certo, poi abbiamo rivisto il testo con il nostro, anche con l'aiuto del nostro produttore di parte dell'album, che si chiama Luca Pernici, che lo salutiamo. Ciao Penna. Salutiamo Penna, anche Matteo, che è a Roma, il vostro Matteo Pedretti, Pedro. Salutiamo, che stasera doveva venire qua, ma stasera ha un impegno, quindi ci sta ascoltando e probabilmente sta facendo la stessa cosa che faceva Sergio prima. È il pilota della Sballo Mobillo, mangiando cacio e pepe. Ecco, perfetto. E quindi molto tranquillamente abbiamo deciso di prendere questo pezzo e di ridarlo in mano. Dopo averlo un po' cambiato, ho detto, adesso ti facciamo sentire come la pensiamo noi. Adesso tu sai come la pensi tu, tu sai come la pensiamo noi, però fai tu. Però capisci cosa... E allora abbiamo fatto questa cosa qua che in realtà ci piace molto. E poi ci sono divertiti come dei pazzi a farlo. Sì, lui si è molto divertito, siamo divertiti. Alla fine l'ho mixato io, alla fine, nel mixaggio finale. Però lui ci ha messo ovviamente tutti quei suoni elettronici, e quando abbiamo sentito lo special, che è la parte dopo il secondo ritornello così elettronico, mi ha detto sì. E dal vivo una cosa simile come si fa? Dal vivo facciamo una cosa in realtà molto particolare, e prendiamo... Che potete darci un'idea adesso. Esatto, un flash. Non abbiamo... Però se vuoi possiamo sì, fare così, un pezzo un momentino di Catene, per capire. Però dopo vi facciamo capire cosa facciamo dal vivo quando abbiamo tutta la strumentazione. Prendi in mano il basso, Matteo. Quindi si rivoluzionano sempre le scalette qua. Seguendo i tuoi occhi non ho catene, disperso nel buio non ho catene, ti giri intorno non ho catene, cercando il tuo corpo non ho catene. Suoni che si prendono il controllo su di me, i miei demoni, esco dalla gabbia danzando sopra i demoni che ho. Vedo te che stai ballando tu curve noti che, e sento che stai sfuggendo tra queste luci strobo. telescopiche. Seguendo i tuoi occhi non ho catene. Disperso nel buio non ho catene. Vieni, ti giri intorno non ho catene. Vieni, cercando il tuo corpo non ho catene. Vieni, vieni, vieni con me. Peccato che l'abbiate già finita. Esatto, era un pezzo molto bello, decisamente. No, bello. E dal vivo, quando siamo nel tour elettrico, diciamo, dove avevamo gli spazi giusti, ci mettiamo in un tavolo di fianco con una luce tipo da discoteca, tipo quelle palle anni 70. Io suono, facciamo un interludio, una parte centrale un po' elettronica, dove io suono l'iPhone, casse rullante di un software. Luca Zannoni, il tastierista, suona l'iPad e suona un synth, quindi un Moog strano. Cesare ha una piccola drum machine che suona coi tasti, Cesare il batterista, e Pepe coi DJ, col CDJ, mette sugli scratch della mia voce e facciamo questa parte da un minuto e mezzo molto molto elettronica. Tra l'altro è bellissimo perché nel tour abbiamo comprato quattro pinguini mannari che in quel momento ballano il tip tap. Ah, perfetto, molto interessante. Tra l'altro... Dimmi. No, volevo dire che qui l'avete fatta molto scheletrica, molto rarefatta, sì. Decisamente lontana dalla discoteca, niente da dire. A me piaceva molto anche in questa versione, chiaramente. Sì, molto molto sì. Perché comunque noi cerchiamo sempre, nonostante l'arrangiamento possa essere elettronico o molto elaborato, di avere anche una dimensione acustica, suonabile. Certo. Ci sono molti pezzi, io mi accorgo spesso, che tu li senti, dici sono molto belli, poi magari cerchi di farli, non so, al falò a Ferragosto, certo, con la chitarra e sono impossibili, alcuni pezzi sono proprio impossibili. Ho capito. Per me i pezzi più belli rimangono quelli che nonostante l'arrangiamento tu riesca comunque a farli con un chitarra. Beh, l'ha sempre detto Paul McCartney, chitarra e voce sono, se un pezzo si suona bene alla chitarra è un grande pezzo, quindi se l'ha detto Paul McCartney penso che se ne intenda. Ci fidiamo, no? Un pezzo del quale la melodia e l'armonia sono comunque comprensibili e non certo, è come una foto di... Cioè, tu fai una fotografia, Photoshop ti può aiutare, certo. Un conto è se ti aiuta a togliere un po' di occhiaie, però tu sei già una bella ragazza, un bel ragazzo, un bel modello. Un conto è se proprio ti stravolge completamente il modello di riferimento, diventa quasi innaturale, poi dipende perché poi ci sono generi e generi ovviamente. Noi però cerchiamo comunque di mantenere una verità nella nostra esecuzione. Benissimo, adesso abbiamo un po' cambiato la scaletta. Che cosa c'era effettivamente secondo te, Sergio? C'era un pezzo da disco oppure no? Beh, adesso dal vivo. Ma facciamo un altro ne pezzo un altro dal vivo, sì, visto che questo era un optional che avete direi fatto. Direi di fare tra le luci bianche a questo punto. Ok, facciamo quello. Adesso datemi un secondo che mi rimetto gli auricolari. Però sapete, potete iniziare, puoi iniziare tu, Luca, a fare un giro di pianoforte. Certamente. Sento il profumo che illumina già pensieri, ricordi e parole a metà. sento sempre qui. Salvami. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, abbiamo sentito la title track, chiaramente, come si dice in inglese, la title track. Title track. E secondo me, adesso ho scritto qualcosina su questo pezzo, è un bel pezzo pop molto accattivante che prende immediatamente, soprattutto nel ritornello, la melodia è base di questo pezzo, anche gli altri pezzi, ma questo particolarmente è una melodia che catturra, catturra con 3R, catturra, catturra con 3R, esattamente, che catturra immediatamente secondo me, non so, questa è la mia sensazione. Qui può parlare Pepe perché... Pepe Matteo, scusa. È un pezzo a cui sono molto attaccato. Tra l'altro nel testo ci ha dato una grossa mano Matteo. Che è quello di Roma, quello che è a Roma. Pedretti. Dopo gli citiamo chi vi ha dato una mano. Ma soprattutto poi magari anche tutto lo staff. Ma mi pare giusto. Comunque, no, tra le luci bianche è un pezzo tipicamente Carbonio 14. Mm-hmm. Uno proprio di quelli nati... e sviluppati da tutti e quattro. C'è da dire una cosa molto importante nel nostro procedimento di scrittura, di stesura dei pezzi. Non abbiamo ruoli predefiniti, nel senso che noi questo pezzo, per dirti la follia, è nato da un file audio che ho registrato sul mio iPhone mentre ero a correre. Mi è venuto in mente uno strano e poi portato da Vale una sera in cui giocava tra l'altro Milan Real Madrid, siamo entrambi milanisti, io e Valerio, il nome del provino era Juventino, stava perdendo in ogni caso. Adesso vediamo. 2-2. Ah, 2-2 hanno fatto. 2-2. Per chi? Per chi? Wow. Sì, il provino quella sera ci era stato chiamato Albiol. C'era il difensore. Comunque, insomma, no, è proprio uno dei pezzi che io dico proprio tipicamente Carmelo 14, perché è proprio nato, è stato sviluppato da tutti e quattro in maniera viscerale. Ce ne sono 4 o 5 dell'album che sono proprio Carbonio 14 al 100%. E questo è uno di quelli. In più tratta un tema che è abbastanza forte, nel senso che qui la situazione che stiamo descrivendo, l'emozione che stiamo provando è quella della perdita, perciò di qualcosa o qualcuno che non c'è più, e perciò ci scontriamo anche con una tematica abbastanza forte che può essere la morte. Certo, certo. E in più a questo ritmo ipnotico, il ritornello con questo falsetto che va e viene, io mi lascio spesso cullare da questo pezzo, è una delle canzoni che amo di più dell'album, e perciò ok, parli con il più forse emotivamente coinvolto nella cosa, perciò mi emoziona anche parlare, a me piace molto, secondo me riflette bene quello che siamo. Bene, vi riflette bene quello che siete. Adesso cosa dici, Sergio? Facciamo la domandina, sono le 23.04, la solita domandina. Come la solita? La solita domandina. Ah, vabbè, la solita, delle 23.04. Sì. La conoscessero già o ci Le ho spiegato un momentino, però non totalmente. Non mi ricordo, non me lo ricordo già più. Meglio che non lo ricordi. Ne facciamo 3 o 5? Cosa dici? 3. Facciamo 5. Ma facciamo un via di mezzo. 4. 4, dai. 4, dai. I 4 dischi che portereste in un'isola deserta, 4 ciascuno si intende, no compilation, e ovviamente non vale copiare quel che è già stato detto. Esatto. Parto io, volete? Io ce l'ho l'idea. Volete parta io, Carbonio? Allora, io mi porterei... E no compilation è difficile, perché io porterei i notturni di Chopin suonati da Pollini. Beh quello possiamo concedertelo. Sì, sì, sì, sì. Assolutamente. La cavalleria rusticana... Sì, la cavalleria rusticana di Mascagni. La cavalleria rusticana di Mascagni. Perché è un pezzo, l'intermezzo della cavalleria rusticana è un pezzo che lo sento ogni volta. Se tu me lo metti io piango, qualsiasi situazione. No, non farlo, piango davvero. E... Blood Sugar Sex Magic dei Red Hot Chili Peppers. E ti ho fregato, Matteo, perché veniamo insieme, perché per me è uno degli album più belli che si sia stati scritti, perché è pieno di... E il quarto disco che mi porto... il quarto disco fosse... Ah beh no, cavolo. Dimmi. È un qualsiasi disco dei Beatles. Mettiamoci Abbey Road. Abbey Road, bello. Bastardo. Vedi, ha cominciato prima. L'ho rubato a tutti. L'ho rubato a chiunque. Ha cominciato prima Valerio, purtroppo. Luca, tocca a te, dai. Facciamo il giro. Sì, me ne ha fregati almeno un paio. Lo so, ma non si può copiare. Questa è la regola fondamentale di questo programma da tanti anni a sta parte. The Wall? The Wall di Pink Floyd. Okay. Bene, visto che hai citato i Pink prima. Okay. E poi faccio un salto da tutt'altra parte con un autore a cui sono legato, che è Gaetano Curreri. Quello di Stadio? Esatto, quindi l'album? L'album è Acqua e Sapone. Ah. Ok. Disco storico degli Stadi. Poi, esatto, poi dopo me ne hai fregato uno che non è poco. Poi dopo Fields of Gold, Sting. Ah, ecco, visto che è uscito il nuovo disco di Sting qualche giorno fa. Non lo sapevo. È uscito da qualche giorno. Dicono, chi l'ha sentito, che lo Sting che ha due o tre pezzi interessanti e poi gli altri di mestiere. Di mestiere. Ma lui per me è il signore della musica comunque. Lui è un grande musicista. Chi l'ha visto dal vivo con la riunione dei Police ha detto che io sono andato a vederlo a Torino. Cosa dici? Che concerto ha fatto? Che concerto hanno fatto? Posso dire una piccola cattiveria? Dimmi una piccola cattiveria. Il concerto dei Police di Torino erano due vecchietti e Sting. Ho capito. Perché c'era Sting che era... lui faceva Solonly, a parte Solonly che ha abbassato un po' di tonalità, ma tutto il resto l'ha fatto come se fosse Sting. Cioè era Sting. Gli altri arrugginiti. No, gli altri non erano arrugginiti, facevano molta fatica a stare dietro a lui. Attenzione che c'era... Ma ne manca uno però. C'è il tuo batterista preferito. Era un po' lì. Dopo Carlo ne ti avvicini palle a te questa roba. L'ultimo? Dimmi, è l'ultimo, sì, devi scegliere ancora l'ultimo disco. Prime U2, War. Bello. Vabbè, hai fatto bene perché molti si dimenticano la bellezza di quel disco degli U2. Anche Brian Eno ha collaborato anche con lui. Brian Eno c'è un po' Steve di Lillie Whiteley. Questi quattro sono i miei tuoi preferiti. Preferiti da Isola. Adesso Carlo difende il batterista dei Police. Vai, Carlo. Allora, una difesa non d'ufficio, una difesa vera. Però grande batterista in ogni caso. Grazie. Ecco. Sicuramente Regatta de Blanc. Vedi di caso per i Police. Io ho cominciato a suonare grazie a lui. Suonato anche i Police? Grazie a lui. E poi un disco che non so se vi ricordate, ma è Black Mark dei Weather Report, certo che me lo ricordo. Che è il gruppo che mi ha fatto proprio decidere di suonare. Addizionale. Io amo particolarmente un disco di Weather Report, si chiama Sin the Body Electric. Che secondo me è il disco più rock pop, mentre già Black Market è più sul jazz. Però lì però cioè, vedi i colori. Il jazz proprio elettrico, l'elettrico sì, jazz. Esattamente, grandissimi i Weather Report, grandissimi. Sicuramente The Night Fly di Donald Fagan, benissimo. Quello lì è... rimane un disco epocale, ne ha fatti solo due da solista. Questo è quello che è uscito da qualche mese. Quello lì rimane un'icona. È un'icona assoluta. Il quarto, avendoti fregato un paio di album, quarto sì, sono molto molto legato anch'io ai Beatles, quindi è un gruppo che per me è fondamentale. Sì, non lo dico io, lo dicono tutti, chiaramente io sono l'ultimo a poterlo dire. No, il primo periodo o il periodo di mezzo, l'ultimo periodo. Dai, tu vuoi mettere il Sergente Pepe, dai. Io ci metto Prince. Ah, non i Beatles allora. Beh, vabbè, Beatles è... Non importa, puoi citare i Beatles senza... Puoi citare un altro album di Beatles. Vabbè, non importa. Purple Rain di Prince. Voglio citare Prince. Cosa di Prince? Purple Rain o qualche altro? Purple Rain. Un grandissimo disco. A volte è grande successo mondiale. Il bello il disco in se stesso, al di là del grande pezzo che lo porta avanti. Certo. È un grande disco di Purple Rain, assolutamente. Sì. Caro Matteo, tocca a te adesso. Passaggio di microfono. Allora, premesso che è una domanda del cazzo. No, scherzo. No, dai, su, sto scherzando. No, nel senso che quattro dischi sono troppo pochi. Lo so. Devi fare delle scelte. Però li abbiamo portati anche noi altri 12, quindi ne mancano qua. No, ok, io parto, mi porto dietro le Zeppelin 3. Perché c'è Tangerine o perché ti piace? No, perché mi piace da impazzire, mi piace le Zeppelin, è il mio preferito, poi perché in quattro suonano come se fossero in 15. Dobbiamo ricordare da dove venivano, Yardbirds Dodgett, quindi insomma, grandissima band. Poi dopo io porterei dietro un pezzettino della scuola di Seattle, mi porterei dietro Vitalogy dei Pearl Jam. Anche perché Vitalogy e non qualche altro disco? Perché Vitalogy secondo me è il disco più completo dei Pearl Jam e soprattutto è il concept album per eccellenza. È il concept album che parte dalla morte, perciò Last Exit che è il primo pezzo, fino a Immortality che è l'ultimo, dove viene citata anche la scena in cui Kurt Cobain muore, l'immagine in cui Kurt Cobain muore, perciò rimane da lì per sempre, perciò è il concept album per eccellenza, dalla morte all'immortalità, e dentro c'è una storia che è bellissima, e in più venne fatto come se fosse un vinile, perciò il CD anche era quadrato, era bellissimo su questo taccuino. Poi mi porterei dietro, per portarmi qualcosa di italiano che mi traghettasse per nel futuro, mi porterei dietro i Subsonica, perché io amo i Subsonica, e perciò mi porterei dietro Microchip Emozionale. Che disco ha fatto epoca in Italia sicuramente. Assolutamente. E in più mi porto dietro Tra le luci bianche. Ale, via! Così abbiamo finito. È stato il più originale. Ha fregato tutti. Però vedi la bellezza di questa band, che io mi porterei dietro in realtà anche tutti gli altri loro. Cioè non c'è nessuna cosa che hanno detto loro che proprio non mi piace. Forse quelli di Luca. No, sto scherzando. Te ne ho nominati due. Cioè, nel senso, sono tutti molto belli. Cioè, quindi proprio abbiamo delle visioni comuni di musica, e quindi è per quello che probabilmente riusciamo a darci i suoni giusti, viceversa, capito? Sì, ma avete portato via British pop qualcosina, ma tanto musica americana più che musica inglese. Io ti chiedo scusa per aver detto la domanda del cazzo, che è una domanda che ti spiazza, perché cavolo. Lo so. Io sono stato il più fortunato. I Beatles ce li siamo portati sì, dietro. Beatles, però avete... Sting ce lo siamo portati. Avete citato i Red Hot Chili Pepper. Io e Pepe veniamo molto da quella scuola lì. Sono giovani per quello. Sono giovani. No, beh, però anche quello è un disco che negli anni 90 ha fatto poco. Io a me piace Californication di Red Hot Chili Pepper. Però è già... È un disco molto rarefatto, molto più pop, forse pop tra virgolette. Posso raccontarti un aneddoto di Californication? Vai. Quando sono andati in sessione di mastering, cioè per finalizzare il disco, avevano pochissimo tempo dall'uscita discografica all'uscita proprio del disco dalla casa di produzione. E lo studio che faceva il mastering, quindi che finalizzava il CD a livello di suoni, si erano dimenticati un interruttore, che adesso non so spiegare perché è troppo tecnico, un interruttore acceso. Il disco, se ascolti il disco Californication, a un certo punto distorce molto, E tu e alla gente poter dire: beh, sicuramente l'avranno loro... fatto apposta. Esatto. È così. No. Ah, vedi. È un CD che suona quasi monofonico, quindi che ha poca stereofonia e che suona distorto perché si erano dimenticati un settaggio del gruppo precedente della sessione. Però loro avevano fretta e hanno detto: vai, lasciamo. Ragazzi, siamo i Red Hot Chili Peppers. Appunto, cosa vuol dire? Pensate, uno fa un lavoro di un anno. Hanno fatto 15 milioni di copie. No, sì. infatti. Però, quindi a volte tu ti fai, noi musicisti ci facciamo molti problemi sul fatto: no, questo suono qua lo vogliamo così. Poi capito, uno fa un errore, allora dicono: vabbè, vai. E tutti a copiare l'errore che hanno fatto. Però magari quello bravo. Esatto. Però dai, Blood Sugar è sound allo stato puro. Ci sono questi soldi, suoni pieni. Cioè, una chitarra, un basso che fanno riff. È una batteria piena, suonano in tre strumenti e tu non riesci a smettere di muovere la testa e di battere i piedi. Cioè, lo so, è incredibile. Però, lì hanno creato un'alchimia. Sì, sono d'accordo con te, però a me particolarmente. No, beh, certo. Ha colpito Californication, l'ho sentito centinaia di volte e mi piaceva tanto. Poco da fare. Ok, benissimo. Adesso sentiamo un altro pezzo. Che bella, falla ancora. Non la ricordo. Non te la ricordi mica? Neanche. Non so il testo, credo che fosse proprio Sail Away. Allora, cosa dici, Sergio? Sentiamo un pezzo dall'album, dal disco. Adesso. Dal disco è stata scelta la traccia numero 7 tra Dire e Fare Male. Ok, la sentiamo su. Sto decifrando questa realtà deludente da sete di verità che prosciuga tutto ciò che so. Sto vomitando quel che non va, ho rimesso in circolo ogni stato d'animo per riflettere su ciò. Questa era la traccia numero 7, Tradire e Fare Male, appunto, dei Carbonio 14 con noi questa sera. che fa presa poco così. Sto decifrando questa realtà deludente da ridare, la mia sete di verità che prosciuga tutto ciò che so di me. Sto vomitando quel che non va, ho rimesso in circolo ogni stato d'animo per riflettere su ciò che ho per me. Tradire e far male, mi allontanerò e tu mi vedrai. Disperso in mezzo al mare, mi ritroverò, lo so. Ma è un assaggino, ma è un assaggino che, vedi, cari ascoltatori, dobbiamo studiare una cosa: fare una versione acustica di un pezzo non è così semplice, è molto, vero Cesare, è molto complicato, ed, bisogna studiarlo il pezzo, perché tutti dicono sì, è non è facile, ma è più facile secondo me giostrare con l'elettrico che non con l'acustico. Sì, è anche vero che, come dicevamo prima, se un pezzo nasce con, sempre con l'intento di essere stato, di essere fatto per cantare voce, cantato, diventa anche più semplice. Questo l'ha detto anche Keith Richards su Live, famosa biografia che è uscita, letto, da letto, che è bellissima. Chi ama i Rolling Stone deve leggerla assolutamente. So, facendo una piccola parentesi su quella biografia lì, a me sconvolge. Ovviamente avrà sicuramente dei ghostwriters, della gente che scrive, sì, certo, però quello, sì, che mi sconvolge di Keith Richards, nonostante l'età e che va sulle palme, e le sostanze che ha assunto durante tutta la sua carriera, è la vita che ha fatto, è la lucidità con la quale ricorda tipo certe cose del 63. Cioè lui, sì, si ricorda, è bellissimo un passaggio in cui lui si ricorda il modo di suonare del batterista dei Rolling Stones quando l'ha conosciuto. E io dico, come fa? Astonishing, cioè la vita fatta di musica, fatta comunque di... La tua vita è sentire le cose e metterle in musica, e tu ti ricordi queste cose qua. Dicevo, è bellissima biografia. Perché... Nonostante tutta la droga, nel caso suo. In realtà non è un bel messaggio, quindi non è... però c'è, cioè, una vita sensibile, fatta di musica, fatta di recepire le informazioni che arrivano, e di lavoro, di mestiere, che è una cosa bellissima. Porta ad avere comunque anche Paul McCartney, una persona, sì, che comunque, certo, nonostante l'età, è molto molto lucida. Nella biografia di Keith Richards si capisce che cosa vuol dire essere Rolling Stones, veramente si capisce dall'inizio, è una roba incredibile. Però impari molto anche di Londra, impari, sì, molto dell'Inghilterra, un po' di tutto, impari dell'Inghilterra, giustamente, del modo di percepire, di suonare, di vivere la musica, certo, in Inghilterra. Certo. Beh, ritornando a voi, questa è una versione acustica di un pezzo decisamente non acustico, ma non che non... perché si può cambiare, si può trovare una chiave di lettura differente. Avete deciso, avete iniziato nei vostri concerti, c'è una fascia dell'acustico, caro Luca? Esiste uno spazio acustico? No, sì, può darsi. Dipende dal discorso, noi facciamo due tipi di concerti, elettrico appunto, acustico, però io credo che, cioè, se una canzone, quello che dicevamo prima, se una canzone si può fare in elettrico, si può fare in acustico, cioè se nasce in acustico, sì, poi si fa in elettrico. La cellula melodica del pezzo. Esattamente, la cellula melodica, è bello sta definizione. La cellula melodica del pezzo è quella che appunto determina la doppia versione di come lo proponi. Quindi l'acusticità può essere, esatto, in questi concerti a porte aperte. Diciamo che il concerto base, ecco, Carbone 14, in questo momento non prevede la parte acustica, ma prevede la possibilità di andare a suonare, proporre i nostri pezzi in acustico. E qui apriamo una piccola parentesi su un po' quella che è la difficoltà di proporre i pezzi propri oggi in Italia, ma non solo, perché insomma, a differenza di una decina di anni fa, la realtà è un pochino cambiata, perciò si fa un pochino fatica a uscire, suonare, soprattutto proporre pezzi inediti. Perciò diciamo che noi li proponiamo anche in acustico, e in base alla tipologia del locale, locale. Poi è ovvio che la setlist base è una setlist comunque corta, un'ora, dove facciamo l'album, aggiungiamo qualche cover per ricordarci da dove veniamo, perciò dei Coldplay, però è abbastanza tirato quel concerto. Però diciamo che non, forse per alcuni aspetti è è ancora più emozionante, ecco, la parte, la, il concerto acustico che facciamo. Dimmi. Però comunque, tornando al gioco di prima, abbiamo questa cosa qua interessante, cioè su 16 album che potevamo scegliere in 4, nessuno ha scelto un album dei Coldplay. Esattamente, e non l'ho detto, però l'ho immaginato, l'ho capito. Forse perché suono ci appartiene, forse perché ci perché? Sentiamo talmente siete stanchi di averlo sentito? Non è forse, no, forse ce li abbiamo dentro. Ah, sì. Beh, dentro. Sì, cioè come se fosse, cioè, quel suono dice, è sottinteso. Quindi io anche io mi accorgo che ascolto poco gli album dei Coldplay, cioè quando esce un album dei Coldplay o un pezzo, un brano dei Coldplay, è felice la EMI. È felice. Certo. Soprattutto gli operai, quelli che lavorano alla EMI quando esce un disco dei Coldplay. Certamente. Però io l'ascolto, poi rimango sempre molto estasiato dalle potenzialità che hanno i loro produttori di volta in volta. Però poi è come se mi entrasse dentro molto facilmente, no? È come una frase che non hai bisogno di dire, no? Forse bisognerebbe ogni tanto rispolverare, però... Ma è musica facile, tra virgolette, con il Coldplay, no, sì. No, non è per niente facile, è facile, l'ascolto, ma anche... Essendo molto abituati a queste sonorità, quindi a recepire comunque, ad aspettarselo fondamentalmente, rimaniamo estasiati, ma lo metabolizziamo subito, ci rimane dentro e non abbiamo forse più bisogno. Io anche quando mi ricordo, perché poi l'ascolto più frequente che faccio quando vado a correre, magari quando sono, perché sennò lavoro sempre nella musica, per cui faccio musica per altri, Coldplay ci sono poco. E Sergio, i Coldplay fanno parte del tuo DNA o no? Qualcosina. Cosa ti piace? Cosa ti piace? Dimmi la canzone che ti piace di più, Sergio. Yellow, battiamo forse la domanda. Bow è un gran pezzo, però Bow è un bel pezzo. Yellow forse. Sì, penso di sì. Sì, non è sulle corde lì. Vai. Siamo molto contenti. Ti abbiamo fatto anche un radio edit velocissimo da un minuto, improvvisato ovviamente. Posso approfittare per salutare un secondo da parte di tutti noi Stefania, che sicuramente ci sta ascoltando. Certo, è giusto. Bacio. Che voce che hai, Mette. Grazie. Sei molto... Parlano di tradire di solito è il vespaiolo di Breganze che mi fa questa cosa. Guarda che fosse due. Il può darsi, puoi mettere anche un punto probabile. Anche da parte puoi mettere. Diciamo che tradire e fare male è, sì, ritornando al pezzo, sì. È il pezzo che insieme a Come Follia è stato prodotto da un produttore diverso, da Luca Pernici, che è Fabrizio Barbacci, che ringraziamo molto e salutiamo. Produttore anche lui di Luciano Ligabue, produttore dello storico album Buon Compleanno Elvis e di quelli successivi, produttore dei Negrita, attuale. Certo. Quindi come... Ecco, è stata proprio una bella esperienza questo album, perché abbiamo lavorato in tanti studi, siamo andati ad Acqua Pendente, che sta in Lazio, tra Lazio, la Toscana, l'Umbria, un posto meraviglioso. conoscendo tanti fonici, tanti studi, e è stata anche molto proprio un'esperienza. Anche se l'album non fosse uscito, per paradosso, sarebbe stato comunque utile, perché andare in tutti questi studi, vedere come lavorano i big, perché poi alla fine sono quelli che fanno la certo. musica in Italia, e far rendere conto sia di quanto diverse possano essere le varie strade, ma anche di quanto poi quello che stai facendo in realtà ci sta, usando un termine giovane, perché ci accorgevamo mentre collaboravamo con loro che alla fine non avevamo tante idee discordanti. Non era perché, sai, poi vabbè, noi siamo ovviamente in quanto artisti un po' egocentrici, però comunque quando arrivi a contatto con i big, quelli che fanno i dischi veri in Italia, sei sempre molto con la coda fra le bella fra le gambe, certo, vabbè. Certo, però poi ti accorgi che alla fine si parla la stessa lingua, che è la lingua pubblica, la comunicazione, questo vuol dire una cosa importante. L'importante è la comunicazione, certo. Cioè l'importante è che secondo me molta gente che fa musica, che magari studia tanto, che non riesce a capire che la musica è un mezzo di comunicazione, è quasi come la grammatica. Tu puoi essere bravissimo in grammatica, puoi conoscere tante cose, ma alla fine se quello che mi dici me lo dici molto bene ma non mi dici niente, non mi dici niente. Ho capito. Preferisco forse qualcuno che mi parla in maniera magari sgrammaticata, un po' poco corretta, però, che però mi riesca ad emozionare, mi riesca a comunicare qualcosa, cioè usi la musica come tramite tra me, o tra quello che la fa, e l'ascoltatore. Bellissimo. E quindi parlando questo linguaggio noi ci siamo accorti che avevamo uno stesso modello di comunicazione, quindi è stato... E abbiamo citato alcuni che mi hanno dato una mano, li abbiamo citati tutti o manca qualcuno? Allora, facendo l'elenco, i nostri produttori sono stati Barbacci, appunto, e Luca Pernici. Certo. Produttori artistici, produttori per ciò artistici che ci hanno aiutato nella stesura dei brani, nel trovare le sonorità giuste, nell'incastrare le nostre idee, indirizzarci sui testi e occuparsi appunto della fase proprio puramente artistica, e li ringraziamo tantissimo. Hanno fatto un lavoro diverso, ma in entrambi i casi molto incisivo, e che ha portato su quelli che sono i Carbonio 14. E poi c'è la parte esecutiva, perciò manageriale, e senza la quale non saremmo qui oggi a parlare del disco, e perciò perché non avremmo un disco di cui parlare. Esattamente. E sono Marco Marchesi, che salutiamo, a Los Angeles, e Paolo Rossi, ovviamente a Los Angeles, entrambi fondamentali, e che ci hanno dato una grossissima mano. Poi c'è una parte appunto sempre nell'ambito manageriale più operativa, che sono Matteo Pedretti, il nostro amico che è giù a Roma, che ci segue in tutto quelli che sono di solito gli spostamenti, oggi purtroppo non è con noi, Vittoria D'Angelo, che ci ha dato una grossissima mano. E dal punto di vista invece compositivo ci hanno dato una mano Marco Ligabue, l'abbiamo detto prima, il tuffo dentrocelo, Jonathan Gasparini, che è il chitarrista adesso di Marco Ligabue, era il chitarrista dei Rats, quelli che avevano fatto Chiara, così, certo. E di Mamma Mi Carburo, che è un gruppo storico nostro, ci ha aiutato a scrivere Tradire e Fare Male. In realtà è un pezzo che è nato più da lui, una volta stavo correndo, l'ho sentito e ho detto cavolo, quel pezzo qua è bello, facciamolo. E Carlo Rizzoli, che è un autore di San Giovanni in Persiceto di Bologna, che ultimamente ha scritto poco, perché ha scritto per Ramazzotti, ha scritto il testo dell'ultimo pezzo di Ramazzotti, ha scritto per Emma, scrive per Amici, e ci ha aiutato molto nel testo e nella musica di Pioggia, che è un pezzo che sentiamo molto, e di E Resta Come Sei, che è una delle bonus track che abbiamo scelto anche noi, chiaramente abbiamo scelto noi come da circa una ventina di giorni, come disco immagine, come disco da lanciare, come pezzo da lanciare dell'album. L'abbiamo scelto io e Alberto Prisco, che saluto, che è il nostro direttore artistico. Ciao Alberto. E stasera vi ha voluto qua fortissimamente, ha fatto bene. Grazie Alberto, allora. E abbiamo scelto questo pezzo che secondo me è un pezzo interessante, bello, anche dal punto di vista dell'ascolto, e abbiamo scelto questo, ecco. È una nostra scelta, al di là di tutti i singoli. A me non è, abbiamo scelto questo, è un nostro modo di proporre la vostra musica, così. Bene, sono 23:32. Cosa dici Sergio? C'è ancora un pezzo da disco oppure no? O sbaglio? Abbiamo esaurito tutto, mi pare. Abbiamo esaurito tutto. Allora facciamo un po' di live adesso. Io potrei darle, visto che ci sono due pezzi, mi sa che sono Ti Verrò a Cercare e Pioggia. Pioggia. Allora possiamo fare. Possiamo alternarne? Tu saresti... Dagli la traccia. La 8. La 8. La 8 è Ti Verrò a Cercare. Sentiamo quella allora. Bravissimo Sergio. Ok. Sei rimasta con me, da sempre in mezzo ai miei pensieri, emozioni libere che io stringo. tengo tra i miei desideri. Fogli bianchi e fotografie, da tempo ho smesso di pensare a colpe che non erano mie. Quante giornate ho perso a dirti che con le parole è sempre facile andarsene. Con le parole è sempre facile vincere. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Siamo a buon punto del nostro appuntamento, sì, Maurizio. Esattamente. Parlando di questo pezzo, io ho scritto una piccola nota, parlavo di un piano percussivo, poi Luca, mentre il pezzo andava, a microfono spento, mi ha parlato di come è nato. Dobbiamo sottolineare una cosa, Luca e Matteo hanno altri trascorsi musicali. Quelli di Luca adesso li elenca Luca, quelli di Matteo li elenca Matteo. Vai Luca, parlami dei tuoi trascorsi musicali. Prima abbiamo parlato di Cesare e di Valerio. Sì, ho avuto un gruppo dove ha suonato anche Matteo che si chiamava Godiva, che appunto il nostro produttore era Beppe Carletti dei Nomadi, con cui io sono appunto rimasto in contatto. In contatto. Ho scritto anche due pezzi del nuovo disco di Nomadi. Esatto, che è il cantante qui di Padova. Sì, di Padova, Cittadella, qui vicino. Cioè. Terzo tempo è il disco. E esatto, poi ho suonato in varie cover band, tribute band della mia zona. E ti sei fatto le ossa, insomma, praticamente. Sì, diciamo di sì. La gavetta nasce anche da quella. Matteo, la stessa cosa per te? No, guarda, io in confronto ai miei colleghi veramente ho avuto una carriera veramente pessima. Pessima. Io tra il 1962 e il 1964 sono stato al Banco Mixer con i Jet Rotal. Beato te. Negli anni 70 seguivo gli Harlem Globetrotters come preparatore atletico, poi ho lavorato col Circo Morfei fino al 94. Morfei. Faceva la zebra. In realtà è un modo per giustificare il fatto che non ha fatto niente. Non ho fatto niente, lo suono neanche il basso. No, ha suonato nei Godiva anche lui. Ha fatto. No, sì. Avevamo un gruppo insieme fine anni 90 che si chiamava Backbeat. Abbiamo vinto un concorso nel, credo, 2000. Questo è vero. 2000, nel 2000, Pistoia Blues. Pistoia Blues, abbiamo suonato con i Jet Rotal veramente a Pistoia Blues. Abbiamo una foto con Robert Plant, perché la sera dopo suonava Robert Plant. Questo è il poco che ho fatto. Sono anche il più giovane, io ho 21 anni. Nei 34. Quando? 21 anni. Quando? Nel 91. Nel 2000. Bene, adesso Luca mi spiega di troscena di questo pezzo. Sì, perché faccio una premessa, perché come ti dicevo prima, siamo abbastanza sostituibili, nel senso non in termine, cioè in termine positivo, certo. Soprattutto io, soprattutto il Matteo. No, ognuno ha, diciamo che ha il proprio strumento, però il pezzo nasce per idea di ognuno di chiaramente. Luca è uno che al pianoforte riesce a trovare dei riff, quindi delle melodie iniziali, quindi percussivo anche per quel senso là praticamente. Sì. E quindi com'è nato? Ma ti verrò cercare, intanto era The Good One. Cioè la buona, vuol dire, la canzone buona. La buona. Quella buona. Ho una cartella segreta, adesso mi viene da ridere guardare loro, però. Ho una cartella segreta nel computer dove tengo appunto tutti questi riff di pianoforte. Un giorno ero con Cesare. Che poi voglio fare una domanda a Cesare. Vai Luca. E niente, ho aperto appunto questi file e ce n'erano un paio che secondo me, cioè, non c'entrava niente con l'uno con l'altro. In realtà li abbiamo presi, li ho tagliati, li abbiamo uniti e uno era la strofa e l'altro il ritornello praticamente del pezzo, a livello melodico. Certo. Li ho mandati a Valerio. Abbiamo sistemato tutto ed è nata Ti verrò a cercare, appunto. Perfetto. Però sì, normalmente io sullo strumento non cerco i virtuosismi, cioè ho passato già quella fase lì. Anche perché non sei capace di farli. Esatto, non essendo. No, ma è vero, è vero. Preferisco fare poche note di gusto. Capito? Un pochino come i riff di Keith Richards, certo, con i Rolling Stones. C'era sempre detto 3-4 note giuste, certo, che però arrivano alla gente. Dimmi. A me viene in mente anche, oddio, c'è un lapsus incredibile, il chitarrista dei Queen, Brian May. Molti tecnici della chitarra non lo amano molto. Perché dicono che lui era spreciso, sì, in registrazione era veloce dal vivo. Però io una cosa che faccio notare molto, visto che parlavamo prima di comunicazione, che tu riesci a canticchiare, se ti ricordi Bohemian Rhapsody, riesci a canticchiare, certo, un solo di Brian May, riesci a canticchiare il solo di Brian May, perché era melodico nella scelta del solo. E questo secondo me è una potenza molto, è un talento molto più ampio di sapere fare un virtuosismo che però alla Joe Satriani. No, per carità, Joe Satriani, per carità, è troppo virtuoso questo. No, sì, indipendentemente dal fatto che tu possa farlo o no, sì, il fatto che tu ti ricordi tutto il solo di Bohemian Rhapsody, ti ricordi il solo di, oppure il riff di We Will Rock alla, sì, fine, certo, qua è una potenza, perché tu vuol dire che sei stato un cantante, quindi tu sei entrato nel cuore della gente e la gente si ricorda. Lui ha questa capacità qua di scrivere dei riff che sembrano semplici, però secondo me nella semplicità che vanno ricercate poi molte cose. E per quello io da quello che fa fatica a dire con la voce, lo dice col piano. No, ma però è giusto. E per quello io ed Alberto abbiamo preso questo pezzo, l'abbiamo lanciato nel nostro piccolo qua dentro e nella nostra radio, perché secondo noi ha questa caratteristica. Un'altra cosa che voglio chiedere, che è quello a Cesare. Cesare mi ha detto, mentre il pezzo andava, che non usi un set enorme di batteria, sei molto inglese, che non americano. C'è un set semplice, anche quello è vero. Beh, in passato ho usato anche set comunque più radio, mi ricordo più corposi, ad esempio, sì, con i ladri di biciclette, che non è che facessimo comunque facevamo del funk o del, del rhythm and blues. È un po' difficile fare, cioè ci vuole un set per fare sì, un po' rumore, no, ricordo, per piccolette. Ma proprio perché a me piaceva, piaceva comunque così avere molti colori, avere con il carbonio comunque, sì, poi ho svoltato, nel senso che ho cominciato a fare delle altre cose e mi sono accorto che comunque la bellezza di suonare con pochissime suoni, con pochissime note, perché comunque anche noi abbiamo delle note, certo, e così proprio suonare in modo minimalista e dà lo stesso l'efficacia. Esatto, sì. Poi vabbè, io è da anni che uso questa cosa qua e con loro uso questo set, perché comunque tanto per citare i Rolling Stone, Charles Watts è molto molto minimale come set, non è un grande set tipico, non è Bonzo ne aveva, era incredibile, no, ma Bonzo era un altro modo di concepire le cose. La verità non c'è nella anche musica, anche se tu ami i Led Zeppelin, niente a dire, ma Bonzo aveva un set spaventoso. Sì, un'altra energia, un'altra, due grandissimi secondo me batteristi, sì, enormi batteristi, molto diversi, certo, molto... Anche Keith Moon è un altro enorme batterista, anche gli spaccava anche lui, beh, lui è proprio energia sì, totale, proprio fuori di tutti i crismi praticamente. È un altro un modo di suonare diverso, certo, chiaramente, certo. Ognuno ha il proprio suono, certo. Io mi ricordo John Iceman di Colosseum, altro straordinario, uno che era sempre davanti, solito batterista in fondo, era sempre davanti nei Colosseum, oltre perché era il leader, però aveva una forza incredibile. Quello sì, era un gruppo straordinario, poco, forse non sottovalutato come preso dal punto di vista musicale, come doveva essere, che Valentina Suite era un grande disco, altri dischi interessanti, però è stato trattato un po' male dalla critica, ma era bravo. Si parla di molti anni fa, chiaramente, un po' di anni fa. Voi siete giovani, quindi. Però ritornando al passato, non fa mica male. Colosseum me li ricordo. Gli showman, proprio, cioè i batteristi. Era uno show, proprio. Buddy Rich. È un altro straordinario. Parlare di batteristi ne sono talmente tanti. Dimmi, Matteo. Vogliamo parlare del batterista, del mitico batterista di Motley Crue, che non mi ricordo, che suonava nella palla Tommy Lee, sopra il pubblico. No, perché vedi, la musica, questa cosa qua, cioè tu magari puoi essere un batterista virtuosissimo, avere tantissime cose, essere comunque bravo, accettato, o essere minimale, cioè non c'è una verità. No, non c'è assolutamente. Però è semplice da dire, perché tu dici non c'è una verità la musica, però quando sei nell'atto creativo pensi a tante cose, pensi a come potrebbe essere così, cosa, e magari ti fai depistare anche dal tuo cervello, da tutte le possibilità che puoi avere, e magari cercandole tutte le possibilità, trovando una strada, magari la perdi e ti accorgi che quello che veramente volevi dire, che era l'inizio della strada, cioè le scarpe che mettevi nei primi passi, era completamente perso. Quindi per quello che ci siamo forse anche divertiti a fare questo album, perché l'abbiamo fatto quasi a livello infantile, come se non ci fosse. E vi siete divertiti a fare due bonus track, di cui una reggeggiante, l'ultima secondo me resta come sei, è molto reggeggiante, interessante. Come mai questo pezzo reggeggiante? L'altra era in inglese, la precedente, che era la versione di Un tuffo dentro al cielo, esattamente, in inglese, in inglese. Step Closer to Madness, e questa finale reggeggiante. Chi ha avuto l'idea del reggae? Io ero appena tornato appunto da un viaggio in Giamaica e per quello. No, non è vero, sta pazziando, come si dice. Pensa che lo volevamo scartare quel pezzo. Perché? Perché non andava? Perché era poco carbonio 14, secondo quello che troppo pensavo. Pop. Ma tu cosa? No, aspetta, ribaltiamo. Esatto. Tu cosa ne pensi? Per me va bene, perché tanto è una bonus track. Nelle bonus track c'è sempre qualcosa di diverso. Ma se non fosse stata una bonus track, io ce lo metterei lo stesso. Tutti ci dicono che dipende. Il nostro produttore per primo. Cioè, perché non l'avete registrato? E l'avete messo proprio di. Quello è un pezzo che ho scritto io con Carlo Rizzioli, quello con cui ho scritto Pioggia. Carlo Rizzioli è un artista molto, molto, molto valente, molto talentuoso. E è molto accentato sul pop, vero? Il pop è fatto di immagini molto precise e resta come se parla di calze nel cassetto. Sì. Ma noi è difficile che riusciamo a entrare così nell'immagine. Noi siamo, come abbiamo detto prima, cioè portami tra le luci bianche. Sono è una un po' cosa, più eterei. È un po' più eterei. E probabilmente sbagliamo, anche perché, come ti dicevo prima, non c'è una ragione, una verità o un errore. Ma può essere una faccia vostra, perché non è mica però abbiamo negativa. Detto, questo pezzo è comunque nostro, ma sentiamo che non ci entra proprio dentro. Ma lo fate dal vivo un pezzo? Sì, sì, lo facciamo. Ma facciamo da bis. No, lo facciamo in quella versione live, la versione del disco. Io non l'avrei messo, per dire. Non l'avresti messo? No. Ma democraticamente avete deciso di metterlo, vero? Beh, sì, sì, ma non ci facciamo, sì, come ti ho detto prima, cioè abbiamo opinioni diverse, ma... No, noi non abbiamo mai discusso per niente. Facciamo tipo, qualche ti faccio questo esempio. Resta come sei, la mettiamo? Io ho detto no. Mi hanno detto, guarda, tu hai deciso già troppe cose del disco. Perfetto. La mettiamo. Detto, vabbè, però il mio va bene è stato... Non è che ero un no categorico, ecco, sì, voglio sì, dire. Cioè, sempre per questo discorso di fiducia. A me... E poi non ci hai chiesto una cosa. Aspetta, finisco. Tutte le volte ci diciamo, ma la facciamo e resta come sei, ma non ce la ricordiamo. Poi la facciamo e ce la ricordiamo benissimo. In realtà, perché... facciamo una... dimmi che cosa non ti ho chiesto. Oddio, no, ecco. È strano perché di solito ce lo chiedono tutti per quanto riguarda il progetto grafico dell'album. Ah, questo è vero, mi sono dimenticato. Adesso te lo chiedo. Allora, il progetto è, che è molto interessante. Come è nato, come si è sviluppato, l'idea da chi è partita? Allora. E, volevamo fare qualcosa che rompesse con gli schemi anche dal punto di vista grafico. È nato per il fatto che io ho un progetto parallelo, come suono con una DJ, con il basso abbiamo un progettino. E una delle locandine che sono state fatte per una serata che ho fatto come DJ era una locandina che mi ha colpito tantissimo, aveva tutte queste forme geometriche molto particolari, semplicissime e complicate allo stesso tempo. Mi sono rivolto a chi aveva fatto questa copertina, erano dei ragazzini molto giovani che fanno l'Istituto Europeo di Design a Milano. Bene. Siamo entrati in contatto con questi ragazzi e fortunatamente a loro è piaciuto moltissimo il progetto e abbiamo chiesto allora a scatola chiusa di proporci qualcosa e gli abbiamo descritto cosa stavamo facendo e loro hanno detto guardate siamo perfetti perché noi la pensiamo allo stesso modo nell'ambito della grafica, cioè ce ne freghiamo assolutamente di tutto quello che c'è fuori e facciamo qualcosa di completamente inedito. Perciò loro come punto di partenza, ovviamente coadiuvato da noi, hanno deciso guardiamo la vetrina della Feltrinelli a Milano e scartiamo tutto quello che c'è in quel momento sulla vetrina, perciò non vogliamo foto in primo piano, cose di questo genere. E perciò hanno creato proprio qualcosa di tipicamente di design, perciò tutti questi oggettini che noi chiamiamo pirellati, non so perché, ma sono questi prismi, queste forme geometriche, sono tra l'altro ognuna coincidente a una canzone. Sì, è vero, assolutamente. Che riflettono intanto questo spazio un po' etereo che è il disco, perciò sfondo bianco e queste immagini colorate che ci sono che rappresentano un po' le emozioni che noi vogliamo portare nel disco. Non c'è nessuna foto nostra nel disco, no, neanche una. Esattamente. Esatto. Nonostante noi siamo bellissimi. Ovviamente, vi vedo, è assolutamente bellissimo. Valerio, tra l'altro, vabbè, lo diciamo. No. Diciamo a mezzanotte e due. Ok. Quando è finito tutto. Ho microfoni spenti. E, perciò insomma e in più hanno fatto questo progetto di design per cui possiamo utilizzare questi loghi per essere messi. Sì, diciamo che all'inizio era difficile da digerire. Noi ci siamo fidati perché noi come nella musica ci fidiamo, cioè perché vedere insomma la band che fa un primo album, non vedere foto nell'album, non vedere magari cose che ci immaginavamo, però ci siamo accorti col tempo che invece quello che avevano fatto era molto utile perché avendo questi prismi e che potevi usare sia come componenti del gruppo, come immagini magari non so, per Facebook, tipo ricordiamo i vecchi simboli delle Zeppelin, sì, tipo il Facebook del Carbonio 14, Carbonio 14 ovviamente con la K, e anche per le canzoni, ogni canzone è un e quindi abbiamo visto che col tempo come le cose poi più belle in realtà, che magari all'inizio ti dicono no, ma babbo, però poi come una bella, cioè ci sono belle canzoni che ascolti subito e sono belle, però sono canzoni che hanno tempo, bisogna ascoltarle più volte, certo, perché, certo. Alla fine abbiamo visto che questo progetto grafico era solido, anche perché c'è una particolarità tecnica molto da nerd, come si dice in genere, in gergo, che a seconda del colore che si sceglie nel progetto, il colore fa assumere una forma diversa all'oggetto stesso. Giusto. E quindi una roba... È uno, è mille, cioè è pazzesco. Perciò ci è piaciuto moltissimo, si integrava perfettamente col progetto visivo, col progetto musicale, perciò questa è una cosa che vorremmo portare avanti. È un discorso interessante, giustamente la spiegazione è perfetta. Adesso che mi viene in mente, potrebbe ricordare certe cose che si facevano tra gli anni 60 e gli anni 70, soprattutto dedicato ai figli di fiori, sì, sì. Americana, Grateful Dead avevano questo genere di cose. Sai cosa cambiava lì? Lo sfondo. Ecco, cambiava lo sfondo. Lo sfondo era molto più amalgamato, esatto. E molto più confondente. Esattamente. Invece metterlo sul bianco era molto, ti creava una cosa invece più... I Grateful Dead avevano, Grateful gruppi similari, avevano questa... Beh, se ti ricordi il famoso disco dei Pink Floyd con... il prisma, cosa sì, era? The Dark Side. Sì. Dark Side, certo. Esattamente. Bene, 23:52, avremo tempo di far sentire un pezzo da disco che avete deciso, che cos'era? Ti ricordate? No, dal vivo. Ma abbiamo, quanti pezzi fate dal vivo? Uno. Allora, no, sentiamo un primo pezzo da disco. Beh, potremmo sentire anche E resta come sei. Ma perché no? L'ho già preparata. Lo sentiamo, lo sentiamo. Ferma lì da 10 minuti. Va, esattamente, va. Lo sentiamo, lo sentiamo. Minuti, siamo ormai in chiusura e abbiamo sentito l'ultima traccia, la 11 del disco dei Carbonio 14. Maurizio. E adesso dovremmo fare una cosa di drammatica, dire il vostro sito, dove si può trovare l'album e soprattutto, sì. Soprattutto esattamente, e se avete dei concerti. Allora, l'album si può trovare su in tutti i media world Italia. E nelle Feltrinelli, nelle Mondadori e in qualche negozio di dischi. Quindi se lo vuoi acquistare fisicamente lo trovi in qualche negozio. Sì, sì, sì, sì, e consigliamo a tutti di acquistarlo fisicamente perché è bellissimo. No, sì. Dubbiamente anche a Media World, no, a Media World sì. E le Feltrinelli, le Mondadori, quelli che adesso vendono sia libri che dischi, sì, perché ovviamente poi di tutto. Bisogna adattarsi su iTunes, ovviamente c'è tutto. Carbonio 14 con la K, 14 il numero. Ugualmente il sito carbonio14.it e la pagina Facebook, ormai la pagina di riferimento è poi quella Facebook dove sono tutti gli eventi e tutte quelle cose lì. e basta. I concerti? I concerti, il primo concerto che mi ricordo credo che sia il 2 novembre a Villa Poma, Mantova. Ed è a Mantova. Mantova. Vicino Mantova. Poi visto che noi abbiamo una memoria corta, consigliamo tutti di visitare il sito, come faccio io del resto, e per sapere i concerti di Coca Carbonio 14. Dimmi, in aggiornamento il calendario. Continuamente, è giusto così. Sergio, abbiamo finito. Domani chi? Domani sera? Domani sera, che giovedì, avremo un gruppo di friulano con Agostino in regia dalle ore 21. Agostino co-conduttore del programma, assieme a me avremo un gruppo friulano di musica acustica, un po' diversa dalla vostra, ma sempre musica di alto livello, come speriamo di far sempre sentire ai nostri ascoltatori, perché live è sempre una cosa positiva, suonare dal vivo è sempre bello. Vivo, vivo. Esattamente. Cosa ci salutate? Con cosa ci salutate? Vi salutiamo con pioggia. Pioggia, benissimo. Grazie a Sergio. Grazie, grazie a Maurizio. Grazie ai Carbonio 14. Grazie a voi. E pioggia. Presto per chiederti se sveglia, per chiederti cosa, per chiederti scusa. È tardi. Viverti ancora, per ridere ancora, ancora, ma ora tu vivi là, qui nella mia città, so che sei qui con me, tu sei tu a svegliarmi, niente da scrivere. Sole qui, guarda me, ma tutto quello che vedo, pioggia. La pioggia.